c'è qualcuno avanti. Nicola. C'è qualcuno. Nicola, ci sei. C'è qualcuno? Eh certo, perché c'è qualcuno avanti. Come sta uscendo? 9:20 a Radio 5, un po' di meno. Un po' più bassa del normale. Oh, a tu. Aspetta che stiamo mettendo le scarpe. Sì, un po' più bassa di segnale. Ma stai dando pochi watt, stai dando? Sì, diciamo un altro tipo di radio. Dimmi una cosa, no, la radio mi interessa, non il segnale. La radio è più bassa, eh. Adesso voglio fare una prova. Guarda, ricordati questo livello microfonico, adesso ne faccio un altro. Vai, vai. Guarda se cambia qualcosa, niente sta cambiando. Un po' meglio. Più forte adesso. Ah, e tu come mi senti? Bene? Sì, già ti ascolto bene. È cambiato qualcosa, quindi da questa posizione, guarda, tu memorizza questo livello, 1, 2, 3, prova radio. Vai. A questa posizione cosa cambia? Ah, è marinuta. Allora infatti è quello che pensavo io. Infatti stavo dicendo, probabilmente non funziona così. Va bene, dai, non c'è nessun altro, tu. No, ma cos'è? Sta scaldando quella, c'è un po' più forte il segnale adesso. No, il segnale non ho toccato niente, è sempre uguale, non tocco qua. Ma io come ti arrivo? 9:30, sì, quasi 9:30, eh. Già bene, dai. No, perché l'altro giorno mi avevi detto che c'era un problema. Vabbè, Maria, adesso è risolto, non lo so, l'altra volta eri un po' più basso del normale. E pensate che con le radio non è che ti danno la potenza subito come attacchi, soprattutto il 14, ma il 44 te la dà subito, ma il 14 deve un po' stabilizzarsi. No, il 40 già va subito, già. Eia. Dimmi adesso, questa radio come la senti, pulita? Perfetta, originale. Ok, vediamo se c'è qualcuno qua che vuole entrare sul canale 10, avanti. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Riprendi tu altro. Ecco qua, ha già lasciato una volta. Allora senti, 2 minuti, sto guardando una cosetta, arrivo subito. Io non c'è problema, io sono qua. Sono anch'io, ma sono momentaneamente qua. Ciao Giafra, mi hai sentito? Questa è un'altra radio che sto provando. Come mi senti di modulazione? Non parlo di segnale. Bene, tranquillo. Radio tranquilla, da salotto. Sì, va bene, no, lo dico, non è troppo bassa? No, non è forte, ma non è neanche bassa, dai. Medio bassa, se vogliamo dire così. Comunque è chiara, non è cupa, diciamo, troppo caricata. No, niente di tutto ciò, tranquilla. Vado da queste. Va bene, ok. Io sono qua, se vuoi entrare quando vuoi, Antonio è andato a. Non so a fare che cosa, metto 2 minuti. Eccomi, sono qua. Giafra, come ti arrivo nelle tue coordinate? Prima un attimo. E 3 prova? Dovrebbe essere un 9:30, perché io il 30 non ce l'ho, c'ho da 20 a 40, ed è in mezzo, quindi è 30. Va bene, va benissimo. No, perché la tua gamma ha detto coso che stava arrivando più basso. Io ho controllato l'antenna, cioè che lo strumento è attaccato e va bene. Sì, vabbè, ce ne sono tante, a chi va bene, a chi va male, a chi ti riesce che sta facendo male quando tu vai bene, non si capisce niente, guarda. scappa, vabbè. Infatti le stazionarie sono a posto. Adesso mi dice cosa sto facendo. Ho preso la scala e sono salito sul tetto a vedere se sta a posto. Solo perché te lo dicono gli altri, già la fate freschi. Io faccio prima a attaccare lo strumento per vedere se c'è qualcosa di diverso o se è tutto uguale. Se dai per gli altri se ogni giorno una antenna, che magari può venire, non c'entra niente. No, è tutto a posto, chissà cos'è la mala sorte, ho controllato vedere se era a posto, ma una cosa visiva così a me quella, salire sul tetto non mi costa niente, metto la scala da qua e sono già sopra, ma è tutto a posto, io vi sento tutto a posto su. Sì, ho cambiato di nuovo radio, questa più forte dell'altra. Mi sali del tetto, cosa Robè, poi c'ho lo strumento attaccato pure, vuoi che non lo sappia? No, ma dico stai molto attento sul tetto. Stavo attento perché ci sono tegole. L'altro giorno c'avevo una piccola perdita, ha giovegliato uno di questi bombolette che stanno prendendo adesso, di quelle del bitume, quelle in bomboletta, io l'ho sfruttato bene, dove era la perdita non perde un filo d'acqua. E l'acqua poi maledetta, mi viene su qualcosa io, qua in una veranda, cacchio, mi ha fatto uscire di testa. Scappa, ma non è così, non conviene manco usare il cannello. Cioè, ci sono questi cosi già pronti. Tu prendi la bomboletta, 8 euro speso. Dai lo spin puro l'ha già comparata. L'ho passata, gliel'ho passata bene bene dove poter, dove era la perdita con un roccio, ha già fatto tu i nobi. Io gli ho dato quella più perdita, non perde più acqua. Quindi c'è andata bene, dai. Ok, facciamo un attimino di bianco, vediamo se qualcuno vuole entrare nel frattempo, se no riprendi tu Gianfra. Sì, sì, io sto leggendo una cosa interessante. Stamattina Robè si sentiva quello che tre volte a settimana fa dicevi tu, no? C'era il packet a 27.235, l'ho decifrato e finalmente ho saputo chi sono. Hai saputo chi erano? Sì, una rete in Olanda, l'altra rete in Germania, sono dei CB, diciamo così, che aiutati da regolatori hanno installato queste stazioni per fare APRS, per dare la posizione. C'è anche il sito con tutte le carte e gli apparati, quindi insomma fino a stamattina erano di lì che stavano funzionando. Sono sempre accesi, quindi a pace un pochino di cooperazione anche noi li sentiamo. Buono a sapersi, bella storia, sempre in mandala per altro. No, FM. Ah, in FM addirittura. Scappa, io vi saluto, ci sentiamo, ciao, che andiamo a fare una cosa. Tanto dove stai andando, a mangiare? No, stavo facendo roba in casa. L'ho visto tanto quella cosa che mi ha mandato. Scappa, hai visto? Villaggio bruciato. Fatto bene perché quello gli penetra e ma non si rivede di più, non ne scende più. Sì, è comodo perché non ti viene neanche sporcare le mani con pennelli e cose, con le spruzzi, è tipo bomboletta spray, quelle che usano per fare i graffiti, dai, per cui va benissimo. No, non la conoscevo. Diventa gommosa, diventa dopo, c'è guarnizione, come che tu li stai infilando una guarnizione dentro, diventa così, diventa, per le piccole perdite va bene. Sì, sicuramente. Tanto, ma c'è il tetto spiovente o piatto? Spiovente. Con tegole. Caffa. E quindi bisogna essere bravi per andare lì. E leggeri anche. Già ci sono buono io, non è un problema. Ho guardato bene, dov'è il punto? E gliel'ho spruzzato. Invece di stare con questi cannelli, se non bastava ne spruzzavo anche un'altra. Anche ma ne è bastata una che gli ha tappato tutto, ho visto bene dove era la perdita. C'era una tegola appena filata, io gliel'ho riempita bene, gliel'ho riempita tutta delle cose. E gli ho fatto le tegole qui, ma non si ne vede più. C'è anche quella qua in alto, tanto c'è anche rossa, sulla tegola, che va benissimo, la vendono in baratto. Sì, lo so, ma costa di più, costa. Ma io con 8 euro ho risolto il problema. Oggi ha fatto acqua, ha piovuto anche i giorni scorsi, Non è entrato un filo d'acqua. Ma contento, pochi soldi e rimborsato. Sai cosa è? Che io in occhi non vi voglio far entrare niente, se no devo chiamare il padrone di casa, ma io qua dentro non ci voglio far entrare nessuno. Capito? Cioè, se posso evitare è meglio. Fai bene. Riprendi, Roberto. Una domanda già fa, ma sempre la solita radio quella che stai utilizzando tu? Sì, solo che sono un pochino più lontano dal microfono, perché sono... sto anche leggendo tra le due cose. Ma infatti ho notato qualche differenza, nel senso è come magari in un ambiente più grande, diciamo più distante, come per dire quando parli con lui a voce con un cellulare, ha dato una sensazione di spazialità. Sì, infatti, così già la direzionalità inizia a prendere sopravvento e si vuole sentire un po' senza quell'effetto. Ma è molto fedele questo SP940 di coso, di spicche, diciamo, di altoparlante, molto, considerando le dimensioni dell'altoparlante, che non è grandissimo, però è abbastanza fedele, ti tira fuori molti difetti. Può darsi. Anto, ma come l'hai fissato il tubo sulle tegole? C'è qualche muretto? Sopra la tappa del condizionatore. Sopra la tappa. E quindi comunque c'è un muretto, un qualcosa che appoggia il tubo. Io non ne ho un numero tuo, se no te l'abbia mandato, come non ne ho problemi, io te la scatto in diretta la foto, capito? No, esagerato, non c'è bisogno, era solo una curiosità perché davvero io prima, non adesso, l'ho dovuta attaccare a un muro che c'aveva l'uscita, fortunatamente io ero in un mini attico e c'avevo quella parte lì, ecco, da terrazzino c'era la parete, se no su era veramente in salita. Ma penso che non i vari agghisciano, perché attaccata la tappa del condizionatore, due condizionatori sopra ci sono, e lo sai quanto regge quella cosa? Il peso del condizionatore, anche se non bisogna valutare la forza del vento mai, però roba quando è in trazione, più lunga la penna è il principio della leva, no? Assolutamente, la cosa è bella che adesso Antonio c'ha l'antenna riscaldata come fanno nei punti di un certo livello, per i cavi a temperatura regolare. No, non le fa niente, no. No, ma anzi, sicuramente non li fa male. Sicuramente. Tu fidati che sono talmente matto, io vedo vero prima, siccome era tutto tegolato, senza figlio, ho fatto il buco nel tetto. E il tubo l'ho collegato al plinto, poi siccome questo tubo era un tutt'uno e quindi era troppo pericoloso fare l'equilibrista sul tetto perché mi vedevano tutti, mi pigliavano un macco, allora sono stato talmente matto, siccome abitavo sotto, a bucare anche il solaio in modo da poter scendere l'antenna e il tubo scendeva dentro casa. Una cosa pazzesca, guarda. Capo, dai, io vi lascio, ci sentiamo, ok? Sì, Antonio, ci sentiamo, dai, buon tutto. Ciao Antonio, buona passeggiata, buon lavoro, buon quello che stai facendo. Ciao. Capo, una domanda tecnica, che tu, visto che sei molto addentrato sul reparto informatico, l'uscita di un apparato, diciamo apparato di un certo livello, cioè l'uscita RS232, diciamo l'attacco vecchio per il monitor, per il computer, se io attacco direttamente un monitor, cosa mi esce? Ci vuole un software per leggerlo o basta direttamente così? No, ho capito bene l'ultima parte. Che tipo di connettore è? Un connettore VGA, un connettore ma è un connettore video innanzitutto. Allora la radio c'ha l'uscita VGA, volevo provare e attaccarlo direttamente a un monitor con luci, con l'ingresso VGA. Se attacco direttamente, che cosa succede? Nel senso, mi appare già qualcosa o ci vuole un software o qualcosa interfacciato a un computer? Credo di non averla mai vista una presa VGA dietro l'apparato. Conosco quelle quelle seriali, e comunque a me sono concesso che sia seriale di norma. Se c'è un ufficio VGA già dovrebbe essere in grado di mandare il segnale sul monitor. Poi dipende da che segnale, perché ci sono radio che in qualche notte magari che mandano, lo usano come filoscopio più che altro, altre che invece digitali magari un po' più recenti che ci mandano il display della radio in grande, però mi sembra una cosa un po' strana. Secondo me probabilmente quella è una presa d'arti, magari con uno standard particolare che si assomiglia alla VGA. Vabbè, non sono molto addentrato in materia, probabilmente è quello che stai dicendo tu, Mario, per fare gli aggiornamenti e cose del genere. Un'altra domanda, l'altro, c'è presente la presa RS-232, si chiama quella classica che si usava nei vecchi computer, e nella OR-3000, il ricevitore che ho, l'altro che vabbè che non sto più utilizzando, c'è la presa simile a quella però molto più grande, quella funzione lì, c'è lo stesso per attaccarla a un monitor o qualche cosa serve? Ah, ma tu mi dici quella 26 pin? Quella più grande, non so se sono 26 o 23 o 24, comunque molto più grande della solita RS-232. Perché di seriali ce ne sono dei due tipi, c'è quella 9 pin che è più tozza, molto ma molto più piccola, più stretta come lunghezza. L'altra, quella che dici tu, probabilmente è quella vecchia, quella molto lunga, che poi in effetti per le seriali, per l'uso per la monomateriale, bastano dai 3 o 4 fili, di lì invece sono in questo caso in contatti. Sicuramente serviva per l'aggiornamento o per il salvataggio delle frequenze, quelle cose lì. La OR 3000, qual è quello che è storto? Quello era o grigio o nero, credo. Ed era storto, cioè storto nel senso del frontale, dava verso l'alto, quello lì. Sì, quello inclinato, hai detto bene. Ce l'ha avuto, ma l'ho dato via perché non mi... era un po' sordo in parole povere. Assolutamente d'accordo, è un giocattolo, infatti è uno che si può divertire così, ma satura subito, se non metti dei filtri per il coso, per le FM, se no non ascolti niente. Dai, infatti io l'avevo preso per uno scambio, avevo dato un apparato che non mi serviva, me l'hanno dato Media Globo, avevamo fatto uno scambio, poi dopo di quello ha preso il CR7000, che il salto è notevole, diciamo, è un'altra categoria di radio, e poi se devo fare cose particolari c'ho quello che ti ho detto a te, quello l'HTL HM265, quello è una bissa, però stiamo parlando già di un apparato uso professionale da laboratorio, strumento di misura, molto molto sensibile e selettivo. Sì, me l'hai detto. La OR poi faceva, c'era una cosa seccante, a parte caratteri piccoli, con la tastiera un po' così. Io ce l'ho avuto proprio tanti anni fa. Cosa c'aveva che non andava? Era proprio un difetto che non sopportavo. Credo che era da 25 a 1200, è possibile. Mi sembra sia da 1300, una cosa del genere. Mentre l'altro, c'è anche la R2000, il nuovo, sono tutti e due fiammati, però il 2000 è ancora più nuovo, con la succio in pelle su, diciamo, proprio fiammante. Quello lì saliva, scendeva un po' più in giù, mi sembra scendeva un po' di più, da 15 a 1500, o 1300, adesso non mi ricordo esattamente. Però se ti vuoi divertire quando vai, per dire, in qualche zona in alto, dicesci, voglio fare a livello di portatile qualche ricezione, ma niente di più, niente di particolare. Infatti la OR ha molto deluso, visto che ci sono delle recensioni non proprio confortanti. se poi cadi su quello che costa, quanto era, 3.000 o 5.000 euro, non ricordo, che c'ha anche i muri digitali, anche quello mi sa che non, che ha creato molta illusione. Lo sai perché? Perché molti sono convinti, si prendono questi apparati per ascoltare essenzialmente le frequenze, diciamo, di pulizia, eccetera eccetera, e questi qua hanno commesso un errore anche pubblicitario dicendo su quello nuovo c'ha anche il tetra. E certo che c'ha il tetra, cosa anche la chiavetta, no, la chiavetta con quel programma che conosci, che adesso non mi viene il nome, ce l'ha il tetra, però non è il tetra della pulizia, vuole il tetra solo, che rigorosamente è super pizzato, come oramai tutte le tradizioni digitali. E questo è solo dopo che molta gente l'aveva comprato, l'ha detto chiaro, ma forse anche molti negozianti seccati hanno messo, guardate che questo apparato non riceve le comunicazioni fissate, punto. Però uno che ha speso 3.000 euro si ritrova con un apparecchio che anche lì non so se sia molto performante, perché poi c'è l'altro più grande anche da 6.000 euro, corrigimi se sbaglio. Però è sempre stati di terra. No, sinceramente li hanno troppo sopravvalutati quegli apparati lì. Tu senti parlare della Verde 3000, gente che naturalmente non ha mai avuto condizioni di causa, di ricezioni particolari, e sono convinti un apparato eccellente, ma eccellente di che? Ma lasciamo perdere, a parte che satura subito, è un giocattolino, così quello che hai nominato tu, sono delle cose troppo esagerate, nel senso le pubblicizzano, poi in pratica non è niente di particolare, costano un sacco di soldi, poi anche bruttino, c'è uno strumentino ridicolo, come quelle GRC lo stesso, c'è un apparato che costa roba di 9.000 euro, infatti ho detto, boh, ma come fa a costare così tanto questo apparato? Ho letto le prestazioni, tu non so se conosci il 9.500 della, l'ICR 9.500 della ICOM, quello bianco, che costa mi pare lo stesso sui 9.000 euro, ma neanche vicino, neanche, cioè da quello tutto attenuato riceve 10 volte meglio di quell'altro. Sì, beh, buono, c'è anche, che c'ha ultime recensioni, l'8006 dovrebbe essere, che poi riceve Torricon, si chiama ICRC, come le 6 dovrebbe essere, copa Caruccio, però insomma c'è tante cose, l'unica cosa che manca è il DMR, ma perché c'è tante apparecchiature DMR, non me ne può fregare mai. No, ma se, non so se l'hai visto, il 9005, quello della ICOM, quello bianco, che è uno strumento semiprofessionale, diciamo una via di mezzo tra amatoriale e professionale, ma è una radio allucinante, fa sino ai 3003, da 0 a 3003, c'ha una sensibilità da paura, c'è una radio spettacolare, analizzatore di spettro tempo reale, velocissimo, però una radio da paura enorme, pesa più di 20 kg, una radio che ben poche persone se la possono prendere. E poi vedi il GRC, che è più piccolo di quello, bruttino a vedersi, cacchio, costa quanto quello, uno strumentino anche ridicolo di coso, un smetter, molto molto ridicolo, infatti con una radio del genere ne hanno messo uno strumentino a livello di apparato a taggio mai. Sì, sì, però bisogna sempre vedere cosa c'è dentro e come funziona, perché quello ad esempio della ICOM lo vendono come un prodotto professionale, ci sta anche, mentre la GRC notoriamente fabbrica anche radio navali, ricevitori navali e così via, e di lì insomma sta iniziando già a andare su una casa che da sempre ha fatto radio di un certo livello, soprattutto con le marine. E quindi, ripeto, dipende da cosa ci mette dentro, da come è fatto, magari è fatta, noi non lo sappiamo, ma forse è anche fatta per metterci vicino a un trasmettitore, per lavorare in duplex, quindi c'è una selettività da paura che gli altri non possono avere. Stai certo che se metti un Rodeslaz da 35.000 euro, è un trasmettitore vicino, scostato di qualche megahertz, si fa da ponte radio tranquillamente, c'è una serie di tranquillità, da paura. Sì, assolutamente, adesso stiamo parlando la Rolls degli apparecchi, niente da dire, ma la dimostrazione è che l'ICR 7000 ha tanto di cappello, un apparato eccellente, all'epoca era il top, parliamo, c'era solo il 9000, di un peluzzino, ma un peluzzino proprio leggermente superiore perché aveva analizzato il rispetto, però detto la Bianco, insomma io l'ho preso la Bianco nel 7000, ne ho avuto due, ne avevo uno in un aeroporto inglese, ne avevano preso un pacco di queste cose qua, tutti rinforzati, con alimentatori rinforzati, dissipatori, connettori militari, a norme militari, eccetera, eccetera, l'ho tenuto per un po' di anni, poi alla fine è entrato nei problemi e l'ho portato, l'ho scritto su a Bianconi, poi mi ha detto guarda c'è un problema abbastanza importante, c'è questa scheda che conviene sostituirla, eccetera, eccetera, però non è facile da trovare. Poi dopo un po' gli ho detto vabbè, vediamo un po', dopo una settimana mi ha chiamato e ha detto guarda me ne è entrato uno nuovo, ne ho ritirato uno nuovo fiammante, infatti con la scatola, se ti interessa, ha detto guarda ritirami quello e ho aggiunto la differenza e me l'ha preso. E ti posso dire il 7000 all'epoca era un signor ricevitore, quando ho attaccato l'altro di più o meno della stessa età e anche più vecchio del 7000, questo ricevitore professionale è un altro pianeta, cioè cosa tu senti il rumore, quel reme con l'altro centrisegnale pulito, chiaro e limpido, però è un apparecchio molto ma molto selettivo, c'ha due bande, nel senso c'ha la 030 e 8808, ma la banda 8808 che con l'altro è muto, il ICR 7000 muto, senti il fruscio, quello la sente pulito e aggancia anche la telefonia, quella è la differenza da un apparato professionale e uno amatoriale. Con le Swartz stiamo parlando il top degli apparati, sono pochissimi, ma pochi riescono ad avvicinarsi gli apparati sempre tedeschi, professionali, da laboratorio a quelle prestazioni, ma stiamo parlando di apparati che costano decine e decine di migliaia di euro, per non dire anche in certi casi anche centinaia di migliaia di euro, quelli a larga banda costano anche 80, 100, 150 mila euro. Ah beh sì, io credo dell'Icon, se non ricordo male, adesso il top di gamma sia il coso lì, l'8600 che ho detto prima, che comunque costa molto molto meno tanti apparati, ed essendo uno con tecnologia SDR non dovrebbe sentire troppo della grandezza delle frequenze, ecco, della spaziatura di frequenza, perché noi sappiamo benissimo che se tu fai un ricevitore HF e lo fai solo per HF allora ti va bene, oppure se inizi a farlo anche HF, VHF, UHF, SHF, succede un pochettino di casino nella componentistica, perché è più complicato, è più incasinato e così via. Quindi l'8600 secondo me tra prezzo e prestazioni dovrebbe essere un bel compromesso, perlomeno per chi si accontenta tra virgolette di un ascolto normale. Sì, sì, no, apparati sempre eccellenti, però quando te li confronti poi con un apparato professionale, diciamo per uso di misura, come strumento di misura, si nota la differenza. Adesso magari la noti un po' di meno, considerando con la tecnica digitale, abbiamo un sacco di manipolazioni digitali, tramite il computer, più veloce il computer più lavori riesci a fare, però di quelli analogici il 7000 all'epoca tirava, dava mattana un sacco di apparecchi, perché ho visto il 9600 la cosa della Iaesu, visto, ma è una grande cagata, l'hanno stesso pubblicizzato, provato sul campo, ma neanche vicino, mi proprio Riccardino aveva 9006, l'ha voluto comprare, ma lascia per, e le ho fatto prendere 7000, ma quello che prende 7000 e 9006 se lo sogna, proprio se lo sogna a parità di antenna e di postazione. Ascolta, il 9006 era quello quadrato della Iaesu, abbastanza datato. Sì, un po' più squadrato anziché rettangolare, ma un giocattolino, cioè una radio che hanno come quella, come la OR, è sovravalutata, non può competere con quelle pari categoria tipo il 7000, mentre poi è uscito il 7100 della ICOM, il sostituto del 7000, ma neanche vicino, cioè il 7000 li fa 10-0, per avere prestazioni superiori di apparati più recenti, parliamo a parità di costo, c'era, lo dovevi prendere l'8500 della cosa, l'ICR 8500 della ICOM, ma poi vabbè c'era il topo di gamma e 9000. 2005, ma quello è per la Babbi, dai. Perché l'8100 è un giocattolino, tu lo vedi, lo apri e è vuoto, cioè non c'ha niente. Poi come prestazioni le ho confrontate al 7000 e addirittura in certi casi è anche inferiore le caratteristiche. Sì, l'8005 non me lo ricordo, forse è l'antecedente dell'8006, che l'8006 è tutta un'altra tecnologia, teniamo presente, cioè il generatore di spettro, tutti registrazione, collegamento remoto e tutte quelle cose lì. E no, ti volevo dire dello Yaesu, io credo di averlo avuto, quello lì che c'ha, è quello che dovrebbe fare qualche tastino colorato. Credo che mi sia durato 2 giorni, al secondo giorno mi sono messo a piangere e l'ho proprio, me ne sono sbarazzato a tutti i costi, perché era, non era usabile, dai, no? Proiezione d'immagine inesistente, sembrava una radiocalena che captava tutto quanto, era una vera cagata, così come era una cagata grandissima il trasmettitore, il ricetrasmettitore della Yaesu 575, no, una cosa del genere, il 757, mamma mia, sulla CB non era utilizzabile, forse ci va bene trasmissione, tutto quello che vuoi, ma se non era sull'1 lo sentivi nel 23, una cosa, guarda, vergognosa. Allora, 757 l'ho tenuto efficiente forse un paio di settimane, non di più, quello dato via il GX, 757 GX, c'è coso, lo sta ancora utilizzando, non facciamo qua il nome per i DX, ma me l'avevano parlato discreto in banda laterale, ma ti posso dire, a me non piace assolutamente, è meglio il 140, magari quello spinge un pochettino di più del 140, un po' più utilizzabile, nel senso come ergonomia delle cose, dei tasti, però a me non piace, per l'amplificatore antenna e genera rumore, cioè è una cosa, non lo so neanche che cosa l'abbiamo messo a fare, no, proprio l'ho fatto fuori subito e non mi piaceva, non mi interessava come radio. Yaesu devi salire molto ma molto in alto per avere qualcosa di discreto. C'è un break, avanti il break. Ciao Lupo Grigio, sei Santiago 7, radio quasi incomprensibile, sei in mezzo al QRM, non so se sei sempre nella solita posizione, però il segnale è un po' più basso del solito. Vediamo se ti ha ascoltato Gianfranco, avanti Gianfranco. Sì, l'ho ascoltato, non so se lui ascolta. Se lui ascolta me, mi auguro di sì. E lo sento abbastanza chiaro, S0, ma lo sento. Ho dovuto togliere lo squash. Totalmente. Avanti dopo grigio, dimmi se mi ricevi, sei S0, la radio è quasi comprensibile. Ti confermo, io ti ricevo, io sono a di punti, così casa di mio figlio, cambio. Sì, adesso si è levata un pochettino il QRM e ti ho capito solo in parte. Roberto ti chiedeva dove ti trovi, se ti trovi a casa col solito gommino, non so cosa c'hai, oppure se sei sul tetto, perché io mi ricordavo che se vai sul tetto si sente molto meglio. No, il punto ha detto Gianfranco. Sono a Di Punti, quartiere Di Punti, casa di mio figlio, cambio. Ecco, adesso si è abbassato, l'ho sentito bene. A Di Punti a casa di tuo figlio, ho capito, e per me quella lì è una zona abbastanza triste, molto, molto coperta. E riprendi, Roberto. No, considerando che col gommino a Di Punti adesso è arrivato Santiago 8, cavolo, sta andando alla grande, non è di più, perché dico, a riuscire a tirarlo fuori da Di Punti con un gommino, anche se ce l'ho di fronte, Di Punti, a linea d'aria siamo almeno a 5 km. E guarda, io praticamente da dove sono io vedo tutta la città, ripeto, vedo tutta la città e vedo anche Ottilo. Sei quasi 8 di segnale, però radio ti do 2 massimo, qualche passaggio magari un po' più comprensibile, però purtroppo sei molto disturbato, io ho il QRM qua molto molto molto elevato, per cui ti tiro fuori con le pinze. Va bene, io vi ringrazio per il piccolo QSO, rimetti il mic, grazie. E poi scusa un attimo Gianfra, Lupo, Nico, non sei passato, non so se ti sei messo d'accordo con Gianni, se volevi passare così vedevamo quel lavoro che ti interessava fare, così era la scusa per conoscerci. Vabbè, guarda, per conoscerci non c'è problema, io sono indeciso, ho la macchina mia quasi 20 anni, sono indeciso se cambiarmela o meno, comunque no, con Gianni ci ho parlato, almeno guarda, vuol dire che comunque passeremo per conoscerci, cambia. Ok, dai, ti saluto, Lupo Grigio, dai, ci sentiamo alle prossime, vai Gianfra. Sì, ok, Lupo Grigio. Ciao Nico, buona serata, e pensaci a mettere qualche antennina, magari un po' più performante, così almeno ti sentiamo anche quando c'è QRM. Va bene, saluti, prego, grazie. Ok, appa, salutoni anche a te, ciao, riprendi Roberto. Ehi, ha voluto mettere tutti e due i filtri dei toni acutici, H1 e H2. Come si chiama? Nello speaker per cercare di abbassare il QRM. No, questo è il QRM, maledetto dottori, cioè riesce a capire i segnali bassi, ecco. Il problema è che l'AM rende quello che rende, purtroppo l'AM non è certo il massimo. Mentre stamane che c'era una leggerissima propagazione, S0 i tedeschi li sentivi come se fossero qua, capito? Io volendo ho la possibilità, adesso in AM non so, non ci vedo una mazza, guarda, sto andando Cibio, Cibio è anche rincoglionito, ti dirò, Cibio come la talpa, c'ha due amplificatori, quindi io volendo il segnale lo posso anche amplificare, aumenta ovviamente il QRM, però io preferisco tenerlo così perché chiaramente poi è un problema, capito, con lo squadre. No, l'altro non l'ha attaccato, l'altro apparecchio c'ha il DSP e c'ha il preamplificatore antenna, quello diciamo superiore, dai, a quello che sto utilizzando adesso. Sì, ma poi c'è anche un altro problema, che dovrei regolare la LC. Insomma, mettiti d'accordo. Allora, perché quando parli o quando parlano i segnali un po' bassi soprattutto, rimane il segnale per un po', no? E poi scende e quindi corre il rischio magari di perderti qualche battuta, vorrebbe più veloce, però deve muovere. C'è il pulsante ovviamente da qualche parte, ma bisogna andare a cercarlo e non a giocarne. Sì. Una cosa, te poi abbiamo parlato di quel 950, quello Barrett. Sì. Mi è ordinato proprio ieri il frontalino, tutto completo, lo danno nuovo, così elimino quello che ha doppio attacco ai microfoni, ci ho visto che è stato fatto un po' di miscuglio di cose, lo danno completo con la scheda posteriore, tutto nuovo, devi soltanto inferire la cosa a pettine, il connettore a pettine e due saldature devi fare. Sì. Sì, ma dato il costo, a meno che tu non lo vuoi diciamo tenere come simile o come cosa, ma che in ogni caso anche quel frontalino non è certo l'originale, quello è un adattamento. Quello blu stiamo parlando, no, il frontalino è il suo originale di quell'apparecchio, però gli hanno messo questo cazzo di connettore, doppio connettore microfonico, io l'ho aperto, guardato, l'hanno sdoppiato, forse per utilizzare due microfoni contemporanei, due tipi di microfoni, non lo so. A volte quegli apparati vengono modificati, c'era anche una modifica, che ho letto sull'antenna. L'antenna sempre per un Barrett, però adesso non mi ricordo se era per aumentarne la velocità di accordo o se era per accorciare lo stile, una cosa del genere. Comunque era l'antenna di quell'affare, è un mostro perché è sempre la stessa, c'è la caratteristica dell'accordatore incorporato. A me onestamente non è una cosa che piace, perché se l'accordato di fuori te lo puoi utilizzare anche per altra roba. Infatti devo dire, questo apparecchio, questo Barrett, c'è l'accordatore interno incorporato, così è? No, lui non ce l'ha interno, c'è il pulsante per l'accordatore, che comanderà probabilmente tramite quella seriale, da camminare molto. L'accordatore in realtà è quell'apparecchio, cioè quello che ci fa in quell'apparecchio proprio, è l'antenna. L'antenna, immaginate una specie di tubo largo, largo, largo, dentro contiene un accordatore finito, che ne so, sarà mezzo metro, questa specie di tubo, inizia uno stilo lungo che accorda qualsiasi cosa, e quindi ovviamente un accordatore fatto in quella maniera è come avere un'antenna verticale che va da tutte le parti, ovviamente. Gli unici confrontabili magari sono gli accordatori marini, che sì, è vero che hanno 2-3 metri di cavo dall'antenna, però quello è proprio facente parte dell'antenna, capito? Chissà cosa colpa quell'antenna lì, quel tipo di antenna. Su quella roba non devi chiedere neanche il prezzo, guarda, se già li vendono a quelle cifre seconda mano, figurati nuovi, no. La roba per amatori, capito? Gente che c'ha la passione per quegli apparecchi, che non potendosi permettere purtroppo il nuovo, va sull'usato che dismettono. E comunque sono trattati bene, sono dei grossi affari. Ah, ecco cosa ti volevo dire. Adesso me lo sono ricordato, mannaggia, sempre su dove hai comprato tu quel pezzo è arrivato un altro apparecchio, che non so se sia lo stesso Barrett o se sia di altra marca, non so se l'hai visto. Sì, li ho visti, c'è adesso i modelli anche successivi di questo, poi c'è questo uguale al mio, blu, identico, però c'è il modello differente con l'altoparlantino incorporato e con i tasti classici a pulsante. E poi questo qui c'ha di buono, questo tipo di apparati, che tu il frontalino lo puoi staccare e te lo metti in remoto, per dire, li metti la radio nascosta al sotto e il frontalino te lo metti tipo l'autoradio, in modo che ti danno anche le allunghi, mi pare 2 metri di cavo col connettore a pettina, e lo puoi utilizzare come, cioè nascosto, come fai su certi tipi di apparati nuovi radioamatoriali. Ma ho visto le recensioni di radioamatori da, diciamo, di un certo livello evoluti, ma ne hanno parlato benissimo, dice un apparato eccellente come prestazione, robustezza, tecnica di costruzione. Io l'ho aperto, 2 viti, tac, che lo apri, senza nessuna complicazione, vuoi togliere la scheda, il coso, è tutto fatto in modo da riparare, poi si vede che è una cosa, tutti i pannelli interi sono in alluminio, hanno di tratto grosso, 2 vitine, sviti e lo fai a pezzettini, in 2 minuti. Sì, è vero, sono fatti per fare quelle cose, perché sono tutti omologati per le vibrazioni, cioè se il lavoro di quello glielo fai fare a qualunque radio amatoriale, tempo 10 minuti ed è funta, è riparabile pure, perché ne esci di pezzi in cammino. Quello che ti dicevo è nuovo, che c'è il Kodan, non è il Barret, è il Kodan 9360, che è sempre HFSCB, la ricezione è 250 a 330 mega, mentre la trasmissione purtroppo è da 225 a 30, e quindi è un pochino, cioè non c'è i 160 metri in parole povere, ma penso che si possa modificare la potenza, la solita di tutti questi apparati di questa razza, 125 watt e 80 watt bassa potenza, alimentazione 12 volt, e questo c'ha l'unità centrale e la testa di controllo, che dicono che se c'è qualche problema è un guaio, però 4 metri di cavo e costa appena tra virgolette 920 euro. Ma il Kodan, per quanto ho capito io, è la stessa cosa del Barret, è nominato con un altro nome, però la stessa radio identica, detto da gente che le ha avuto entrambi, dice sono le stesse radio, soltanto magari uno c'è il frontalino diverso, però la radio è identica, non cambia niente. Io l'ho aperto, detto ci sono un sistema di filtraggio di toroidi, ti mette le mani in testa, cosa cavolo c'è? C'è una ingegnerizzazione in quella radio da paura. Come tutte quelle radio, purtroppo così. Ma io te l'ho detto anche con quelle che ci ho alta frequenza. Io, guarda, ieri ho aggiornato col calcolo di Anitone, 5, 7, 8 dovrebbe essere, che è un big band con DMR, ma guarda, non può neanche, ma neanche una vite di quelli professionali, è una, sì, riceve, trasmette tutto quello che ti pare, però è di quella razza amara, capito, che se rimane in trasmissione non ne frega niente a nessuno, certi errori non sono stati corretti, quindi sono due pianeti differenti, guarda. Sì, sicuramente, ma la cosa che mi ha meravigliato, che sono rimasto a bocca aperta, io non ho mai visto nessun apparato, parliamo degli HF normali, questi amatoriali, i transistor di potenza, sono transistor professionali che utilizzano in apparati professionali di trasmissione, parliamo per uso broadcast, ci sono due transistor accoppiati, MRFJ, non mi ricordo che cosa siano, due accoppiati, normalmente usano quei transistorini in plastica, e tutti i classici, in tutti gli apparati che ho visto, ma questo c'ha proprio i transistor, quelli piatti, bianchi, con i tre piedini montati sulla scheda in orizzontale, non in verticale, non so se mi hai capito. Sì, guarda, io ho avuto un ricettormettitore, sì, della Japan Radio Company, GRC, che dentro lo aprivi, detto io vi sopperto solite 4 viti, massimo 5, e cioè davanti un apparecchio vuoto con tante schede, ognuna di quelle schede faceva qualcosa, cioè si guastava il modulatore, toglievi la scheda, la cambiavi e ti funzionava immediatamente, se la parte trasmissiva la toglievi, ci mettevi l'altra e funzionava. Ed era un apparecchio navale per comunicazione navale, ma devi vedere quanto era bello. Purtroppo non mi ricordo neanche dove è finito, perché avevo avuto un guasto, non ricordo neanche chi l'avevo dato, ma guarda, era una favola, una cosa proprio in cui potevi dire non me ne frega niente se si guasta, mi procuro la scheda, gliela metto e va. Purtroppo però, data l'età, le schede non si trovavano, perché era molto difficile che si rompessero quegli apparecchi. Sì, ma quelli sono per uso continuativo, sono apparati tipo bloccati 24 ore su 24. Io ce l'ho un pilota, un 20 watt 8808, l'amplificatore pure l'avevo dato via, sono fatti per uso continuativo. E così questo Barrett, quando l'ho aperto ho detto cacchio, la prima volta che ho visto un apparato, se parliamo di HF, diciamo per questo tipo, anche c'è un apparato professionale con i transistor in quella configurazione, mai visti, perché tu prendi un 940, un 440, c'hanno i classici transistor a tre piedini in plastica con dissipatore di, questo invece è un altro, tutta un'altra tipologia di costruzione, proprio un altro pianeta di cose. Mi ha impressionato quello che toccavano alla costruzione di questa radio, che poi è utilizzato, ho visto le caratteristiche di funzionamento d'uso, da, diciamo, da meno 15 gradi fino a più 55 temperatura esterna, cioè per uso allucinante, cioè se tu ti metti un baracchino e lo usi sotto il sole si scioglie. Sì, su quello non ci piove, ma sono tutti così gli apparati, i veri apparati professionali, perché bisogna stare molto attenti, perché questo termine troppo spesso viene abusato da ditte che ti vogliono fregare. Se non stai attento troverai anche Baofeng professionali tra poco. No, la Baofeng ha toccato il fondo, sino a 30 km, 30 km, 50 watt di potenza con le pile, non so se l'hai visto le pubblicità, ma cose allucinate, cose, no 30 km, 300 km, fino a 300 km di portata, di potenza non so quanti watt ci avevano, con le pile sue, cioè la legge, hanno modificato anche la legge di Ohm, cioè su le batterie, che dire, 12 volt di batterie, cosa cavolo di potenza dovrebbero avere queste batterie per dare 50 watt? Sono batterie nucleari, Infatti qualcuno ha risposto, devono avere un microgeneratore nucleare all'interno. O la potenza, non so se tu mai hai visto gli amplificatori di adesso, 5000 watt PEP, no, con le torri, come si chiama, per fare karaoke, ma cose allucinanti. Io dico, ma la potenza da cosa la ricavano? Ho visto un servizio di questo istituto industriale di fuori, non so, Firenze o qualcosa del genere, hanno comprato uno di questi amplificatori cinesi che dichiarano potenze 2000 watt, l'hanno misurato e arrivava ma appena a 4 watt, effetti PRMS e tutto il resto, dopo i 4 watt era distorsione al 50%, e loro mettevano 4000 watt di potenza. Guarda, per non dire la marca italiana che riproduce adesso gli amplificatori lineari, che per i cinesi sarebbe già una guerra persa, ma anche penso per gli americani. Cito solo una marca italiana che non c'è più, che è stata comunque rimodellata sotto altri nomi, che è la Crodel, ma tutte le ricordi della radio Crodel, scatoloni, tutti quanti, però alla faccia dell'erario. Ecco, le facciamo la apparecchiatura professionale, ma noi eravamo all'avanguardia mondiale perché siamo stati il primo paese al mondo di liberalizzare la frequenza, per cui c'è stata un'invasione di costruttori, di ingegneri, hanno fatto degli apparati trasmittenti. A livello mondiale abbiamo un'ingegnerizzazione e una esperienza, nessuno al mondo ce li ha, solo pochissimi marchi riuscivano a fare quelle cose lì. Infatti proprio oggi sto guardando un video parlando, poi c'è la storia un po' della radiocomunicazione in Italia, ma abbiamo noi in quel periodo fino agli anni 90, eravamo pieni di industrie, piccoli artigiani, ingegneri che costruivano apparati trasmittenti allucinanti. Qualcuno è rimasto ancora, come per dire quella che hai nominato tu, la Elenos a livello mondiale, quella lì. Poi c'era la DB Elettronica, che io pensavo fosse chiusa, di Novetta Padovana, che ha riempito tutto il mondo in Italia delle stazioni radio. L'80% erano apparati DB Elettronica, anche se non erano di altissima qualità, però qualità prezzo erano molto convenienti. Adesso ho fatto degli apparati, sono rimasto a bocca aperta con questi nuovi classe D, che sono giocattolini di dimensioni, ma tiriamo fuori 500 watt, che prima dovevano avere un rack enorme per avere quelle potenze lì. Infatti, guarda, adesso sto guardando, ricevitore professionale, però vedi, almeno qui ti dicono la verità, quando usi il termine professionale, è professionale, non c'è da... è anche bruttino, ti dirò, perché stile anni 50, secondo me, poi magari dal 60, che se tu hai guardato quella pagina, lo Rodel Pass è K07. Frequenza operativa da 0,5 a 30.1 magari, in tutti i modi, AM, CV, USB, USB. Se tu, io sono sicuro, questo tra l'altro lavora in 12 bande, quindi c'è la regolazione proprio ultrafiltrata, e se tu attacchi a un apparecchio moderno qualsiasi, sia esso ricevitore o trasmettitore, per fare il confronto, penso che tutti quelli moderni, anche se lui ha valore, ne escano di sussa, anche perché comunque lui c'è i suoi anni e funziona. Quelli lì non so quando avranno l'età di questi, se continuano a funzionare. Ah certo, sono veramente d'accordo. Lì, se c'è tempo, guardati HTL e poi scrivi HTL, è la marca, l'abbreviazione del progettista, dai. E scrivi poi il modello HM Hotel Alpha Mike 265 e ti appare l'apparecchio che c'ho io, e poi lo controlli, che sono di quella categoria lì, di quegli apparati da laboratorio di misura, strumenti di misura. Ma stiamo parlando di apparecchi che c'hanno questo, se tu lo apri pesa una quindicina di chili, tutto a schede selezionate, cioè separate e sigillate in alluminio, cioè sono delle cavità, dei filtri passabanda, passabasso, tutto a settori per ogni fascia di frequenza. Ma che non me lo dà, mi dà la Rodel Pass subito, mi dà l'H, questo, no, no, sono questi, vediamo che animale è, come ho detto, già, guarda, se tu ti guardi questo, già vederlo dici, è meglio, sta già aprendo la pagina, c'è questo che è mostricciato, c'è una sola mano qua, dalla linea capisci di cosa stiamo parlando. Sì, ma Rodel Pass stiamo parlando, Già lo sai, senza dirti, lo stiamo parlando già, il non plus un sarà lo stato dell'arte della tecnologia tedesca, delle comunicazioni. Nessuna radio, forse qualcosa la radio e la RAI aveva preso in un periodo come apparati trasmissivi, perché ci sono delle stazioni che se lo possono permettere, si prendevano i coso, i Rode Swart, ma pochissime al mondo erano capaci di spendere quelle cifre lì, magari sul primo punto di trasmissione, il punto fondamentale dove c'è la cosa, perché costano talmente tanto, sono delle apparecchiature super, super, super in tutti i sensi. E sono anche belle a vedersi. Ho visto le nuove che stanno facendo per le TV digitali e per le radio digitali, sono fantascienza. Sì, poi queste, anche se sembrano semplici, molte hanno dietro la presa, proprio la vera presa per l'analizzato di spettro. Questi sono micidiali, però sono solo sogni, dai, e quindi adesso ci svegliamo e ragioniamo con quello che abbiamo. Sì, sì, ma anche quello mio, che c'ho io, c'ha tutte le prese BNC davanti, c'ha una marea di attenuatori, regolatori, preamplificatori, e più c'ha le prese per gli oscilloscopi, ci sono tre ingressi, c'è scritto RF, BFO, scopo, e poi c'ha altre uscite a 12 volt per alimentare forse qualche apparecchio, di quegli attacchi tipo il microfono, che c'è un apparecchio microfonico, che c'è la presa microfonica a pannello, c'ha anche le memorie, questo c'ha una decina di memorie, però sono memorie meccaniche, nel senso ci sono 10-15 memorie, cioè, ci sono dei tastini A, B, C, D e poi c'è 1, 2, 3, 4 e sono, c'è un display digitale, un monocolone per la frequenza e un altro in orizzontale, una leva, guardatelo, se c'è 5 minuti di tempo guardatelo e ti rendi conto di cosa stiamo parlando. Sì, ce ne sono tanti, ma rispetto solo sogni, questi qui hanno vita lunga, quindi se non esce nel frattempo qualche tecnologia non li trovi neanche a metà del prezzo normale, perché già se lo prendono alla metà non ce lo possiamo permettere lo stesso, quindi diciamo la metà della metà della metà, un quarto del suo valore iniziale, anzi possibilmente un sesto, dai. Guarda, io ti dico solo una cosa, lo devo fare, stiamo parlando forse 30 anni fa, dai, più o meno una trentina d'anni fa, erano venuti a fare un controllo, una verifica, quando ancora c'avevo la radio bloccata, dai, una piccola radio, e sono venuti a fare il controllo per verificare la seconda armonica, quanto era attenuata, la fondamentale, eccetera, eccetera, e sono venuti col furgoncino, un Ducato, mi sembra che c'aveva qualcosa del genere, e dentro c'era un apparecchio di misurazione Rode Swart, costava 200 milioni quell'apparecchio all'epoca, perché mi hanno fatto entrare dentro, anche per curiosità, ho detto vediamo, mi fate vedere un po' come la situazione mia, mentre accenda, tolga la modulazione senza musica, e poi l'abbiamo provato con la musica per vedere le deviazioni e tutto qua, e mi ha fatto vedere l'analizzatore spettro di questo della Rode Swart con tutto la gambanda, 200 milioni costava quella parecchia. Sicuramente è passato qualche anno, e ho visto la gara d'appalto del nuovo, di quelli portati, quelli che servono, diciamo, per andare, che ne so, al piano e vedere un po' uno cosa sta combinando, no? Non ricordo, solo l'antenna costava 3.000 euro, solo l'antenna, perché sta detto che è un'antenna triangolare di quelle speciali. L'apparecchio era grande quanto il doppio di un portatile, se non ricordo male. Non so quanti ne avrà ordinato, credo una trentina, eccetera. Lo stanziamento era enorme, guarda. Per il Ministero delle Poste, Telecomunicazioni, servizi di sorveglianza dello spettro RF nazionale. Una cosa, ma io ho guardato le caratteristiche sul sito Rode Swart, da mettersi le mani in testa, cosa fa? Un aggeggino piccolo alimentato da accumulatori, portatile, Ma le mani. Allora invece... dove c'è una ragazza, ha portato un furgone della Telecom, no scusa, no, dell'Enel era questo qua, e questo ci serviva per misurare, era allestito per misurare, c'aveva un traliccio, mi sembra saliva su 10 metri dall'interno, su telescopico motorizzato, in azimuto e in orientamento, in elevazione e in azimuto. Dentro c'era tutti i pannelli di controllo, infatti avevamo smantellato tutto e questa qua, peccato, gliel'ha lasciato, c'è tutto il controllo con tutti i display, infatti il pannello me lo sono tenuto io, ci sono tutti l'angolo di sollevamento, cioè di elevazione, quanti metri in altezza, la direzione, quanti gradi stai girando, e serviva per misurare, non so per cosa esattamente, per